Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Ed eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24 in diretta da una piovosa Milano. Tre compari dei conti della Belva in studio, il quarto che si collegherà più tardi, vi danno un grato saluto, grato perché ci ha ascoltato in diretta in podcast, e vi salutano per questo fine settimana. È iniziato oramai l'epoca, io dico epoca perché è così lunga, io non capisco. Natale dovrebbe durare pochi minuti, un bacio, un abbraccio tra amici, fratelli. Invece no, Natale qua dura una specie di catervata di settimane ed è praticamente ufficialmente cominciato, come sapete, ma noi siamo sempre qua e vi diciamo per telefonare all'800240024 di che cosa ci occupiamo oggi. Partiamo, cari amici senesi in ascolto, sarebbe bello se qualcuno di voi ci telefonasse, con l'aggiornamento che commissione bancaria avviene proprio nella lettura retrospettiva di la risposta alla seguente domanda: ma perché è andato gambe all'aria il Monte dei Paschi? Adesso finalmente abbiamo anche una ricostruzione ufficiale da parte delle più alte autorità italiane del mercato, a cominciare da quella della Banca d'Italia, e il nostro amico Mario comincerà esattamente da questo. Però chiamateci anche voi, cari senesi. Il vostro sindaco ha appena detto che lo Stato deve rimanere azionista quindi questa cosa ve la ripeto perché è collegata. Vedrete che la politica è uno dei due aspetti, come risulta non evidente. Non ci eravamo accorti, Oscar, è una grande novità dell'anno. Cari senesi, che ritorni pubblica, volete davvero? Ecco, chiamateci. E naturalmente, se eravate clienti o siete ancora clienti, a maggior ragione. Ma dopo di questo, su che cosa andiamo? Sulla web tax, che è uno dei pasticci, almeno a nostro giudizio, vi spiegheremo perché, della legge di bilancio in arrivo, e capiremo quante leggi italiane e internazionali infrange. Naturalmente anche su questo però vi chiediamo, telefonateci per dirvi, da quello che avete capito, se siete favorevoli o meno al fatto che si inizino a tassare le operazioni in base al fatturato invece che al reddito. E detto questo, però ci occupiamo anche dello sciopero che ieri è avvenuto a Cassino di Piacenza, per capire sulla vicenda di Amazon come la pensate. Avremo un rappresentante del sindacato, la CGIL, che ci spiega non solo la contesa dei dati, quanti hanno partecipato e quanti no, ma le ragioni in termini comparati delle richieste dei dipendenti. Queste piattaforme sono lo sfruttamento di un mondo che non ci piace o sono invece rispettose dei contratti italiani e vuol dire solo che non ci piacciono e basta? Ecco, altra domanda. Poi andremo ad approfondire insieme al nostro amico Alessio Argiolas alcune delle novità di cui nessuno ha parlato in termini fiscali della legge di bilancio. Vedete che ce n'è una in particolare che non può che dispiacere a chi ha avuto i propri stabilimenti, le proprie imprese, eccetera, devastate dal terremoto. Uno strano stato questo, che si riempie la bocca di aiuti e poi però quando si tratta di mettere mano al portafoglio fa figli e figliastri. Lo vedremo anche questo. E poi due approfondimenti internazionali, una breve riflessione sul fatto che in Germania i socialdemocratici possono davvero tornare a governare con la Merkel, punto interrogativo, dopo il fallimento delle trattative con i liberali e con i verdi, in buona sostanza con i liberali. E invece Renato Cifarelli, reduce da un viaggio nei meandri della sua azienda e dei suoi rappresentanti venditori in Cina, ci darà le sue prime impressioni sulla Cina di Renato. A questo cosa vogliamo aggiungere, Mario? Ma allora, buongiorno a tutti. Cosa possiamo aggiungere? Che visto che si stanno avvicinando le elezioni e praticamente la facciamo a gara a chi la spara più grossa, questa settimana abbiamo una interessante collezione. Dunque, la segretaria generale della CGIL, Susanna Camusso, che è impegnata, diciamo, con questa sorta di vertenza per i lavori usuranti estesi il più possibile, però è sufficientemente magnanima da ricordare anche i giovani, cioè il rischio che i giovani avranno una pensione assolutamente devastata dalla precarietà, dalla discontinuità della carriera lavorativa. E di conseguenza, così per mostrare che non è esclusivamente focalizzata sulle pensioni, ha rilanciato l'idea della pensione minima per i giovani per combattere la discontinuità contributiva e il precariato, però ha omesso di indicare i costi e, parlando con Lucia Annunziata in TV, ha detto che oggi questa misura della pensione minima ai giovani non costa tra 15 anni. Questo è il famoso concetto in base al quale qualche santo ci aiuterà. Il concetto del valore attuale della spesa pubblica, cioè quanto valgono gli impegni futuri di spesa oggi, è assolutamente una variabile indipendente, non ce ne può fregare di meno. Credo che questa sia l'interpretazione peggiore della famosa frase di Keynes, che praticamente nessuno ha capito e che tutti citano in modalità da salotto, in maniera anche abbastanza logorante e frustrante, del tipo: nel lungo periodo saremo tutti morti. Esatto. Quindi diciamo, le passività future non ci riguardano, perché tanto per quella data saranno cavoli altrui e al limite metteremo la patrimoniale. Poi altro punto, il presidente della commissione bilancio della Camera, Francesco Boccia, che è sempre in prima fila quando si tratta di tassare la tecnologia, l'innovazione eccetera, ha suggerito che Poste Italiane dovrebbe allargare, tornare ad allargare il proprio servizio universale, certo, e tornare ai pacchi, all'esclusiva di consegna dei pacchi. Non solo, probabilmente per evitare eccessi di inquinamento da tutte queste consegne urbane, Boccia pare suggerire la presenza di enormi depositi dell'e-commerce fuori dal comune, fuori dalla famosa cinta daziaria del comune, dove i furgoncini rosso fuoco delle Poste Popolari Italiane andrebbero a prelevare i pacchi e ve li consegnerebbero con una classicamente pubblica e statale lista d'attesa, ad esempio, di alcuni mesi. Questo ovviamente per contrastare Amazon. Noi abbiamo una notizia per l'onorevole Boccia: Amazon non ha il monopolio della consegna dei pacchi. Ma come no? Perché si avvale di corrieri. Ma che dici? Ora, io capisco che Poste Italiane abbia un problema di reinventarsi la propria mission strategica, no? Perché il recapito è quello che farà di Poste Italiane la prossima Alitalia a fattore 1000. Però sarebbe anche utile, quando si parla, cercare di collegare i puntini. Questa è l'unica cosa che posso dirvi di una settimana che comunque vede pressoché quotidianamente degli sfoggi di socialismo surreale in un paese che sta veramente facendo la fine della maionese, cioè sta impazzendo. A proposito di socialismo, però devo dirne uno io, perché qui i veri socialisti invece fanno un altro mestiere. Xi Jinping ieri annuncia l'idea che la società marxista, caro Oscar, si è evoluta. Sì, beh, diciamo, adesso non esagererei con questi termini. Ma... e dice che oggi marxismo vuol dire dare più possibilità di scelta alla gente, quindi vuol dire abbassare i dazi, abbassare le gabelle, favorire gli scambi internazionali. Pensa un po', ecco, mentre quindi hanno ridotto i dazi e le gabelle su 187 merci, tessuti, carne, scarpe, tra l'altro molto del Made in Italy. Pensa un po', abbiamo i comunisti cinesi che fanno bocca i liberali, bocca, esattamente, mentre abbiamo i nostri politici italiani che vogliono al contrario dazi, gabelle, protezionismo, per la volontà è questo. A fronte del fatto che, lo dico diciamo da nativo di quella zona, apre la linea ferroviaria Mortara-Chengdu. Avete visto questa? Sì, bellissima. Sì. Alla grande. 18 giorni via treno, via transiberiana, riusciamo a portare le merci da Mortara a Chengdu e ritorno. E contro i 2 mesi del percorso via mare. Una bella notizia, perché finalmente la via della seta diventa ferroviaria. Contro i 2 mesi di viaggio via mare. Mi sembra una bella notizia. Passerà quindi da Vigevano e da Abbiategrasso la via della seta, e l'Italia diventa più vicina alla Cina. Soltanto che abbiamo invertito i poli, no? Però il vero polo del marxismo sta da noi e di là invece trionfa la politica liberale. Però diciamo anche rapidamente una cosa: l'astuzia cinese di dire noi, bene, oramai visto che ci siamo spostati su produzioni a più elevato valore aggiunto e stiamo cercando di dominare il mondo sul digitale, sulla tecnologia, apriamo alle produzioni a minor valore aggiunto. Quindi è una sorta di doubtless, esatto, dove chiaramente a loro serve la qualità occidentale su prodotti alimentari che loro chiaramente non hanno, ma comunque prodotti a minor valore aggiunto, a minore tecnologia, per avere questo scambio che deve portare, e questo non lo sta dicendo il primo seminario che passa per strada, ma lo dicono i documenti ufficiali di partito, al dominio tecnologico da qui a una quindicina d'anni, dominio tecnologico planetario. Oh, che sarà colpa nostra però, perché purtroppo è così, certo, torniamo certo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia l'è mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me la segni proprio, non mi preoccupare. Allora, cari ascoltatori, questa settimana qualche passo avanti nel lavoro che non sarà più ancora molto lungo, perché secondo me si va a votare presto il decreto di scioglimento, temo, visti i segnali che arrivano alla legge di bilancio questa settimana, lo scontro assoluto, il governo in crescente difficoltà, questa è l'unica cosa che dico, quello che è avvenuto 2 giorni fa solo Repubblica l'ha colto nella legge di bilancio, perché davvero Gentiloni e Padova hanno dovuto dire alla maggioranza, al PD e anche al Quirinale, noi siamo pronti a dimetterci se non la smette con i vostri emendamenti. Quindi stiamo parlando di una legge di bilancio che da 20 miliardi è già arrivata a 27 e i cui saldi finali non saranno l'1,6% del deficit su cui fintamente ci si è impegnati all'inizio, ma questo era chiaro fino all'inizio. Ma al di là di questo, una settimana che, caro Mario, è andata avanti con qualche elemento significativo nella ricostruzione di cosa è avvenuto su Siena, perché questa settimana c'era Siena, che diciamo? C'era l'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta di Carmelo Barbagallo, quello di Banca d'Italia, il responsabile della vigilanza. Io ho letto le pagine della relazione, non è niente di inedito, soprattutto per chi come me, come dire, ha vissuto quegli anni in un qualche modo, non facciamo troppa disclosure, e quindi aveva avuto già la percezione di tutte le cose che alcuni condottieri stavano servendo al popolo. Però è bello vedere scritto che anche in un paese ridicolo come questo il tempo è galantuomo. Nel senso che Barbagallo praticamente ha puntato il dito contro la Fondazione Montepaschi, perché, virgolette, ha inteso mantenere a lungo, anche quando non ce n'erano più le condizioni, una posizione di dominio o comunque di rilievo, erodendo il proprio patrimonio e indebitandosi. Ora, siccome io non voglio, come dire, stancarvi e indurvi a cambiare canale parlando troppo, perché mi annoia sentirmi parlare, quindi siete in compagnia, c'è da dire solo questo: la Fondazione, in reiterata violazione delle norme della legge Amato-Ciampi, ha tenuto il controllo assoluto sulla banca. La banca si è comprata Antonveneta senza due diligence, cioè senza valutare quanto realmente costasse. Dopodiché la Fondazione aveva bisogno disperato dei dividendi della banca per far piovere sul leggendario territorio un sacco di dolcetti, regalini e caramelle, e di conseguenza la banca è stata indotta, guardate che questo emerge dalle parole di Barbagallo, non me lo sto sognando io, è stata indotta ad allentare gli standard di credito e a fare credito a cani, porci e galline. E per guadagnare di più, questo per diciamo, guadagnare di più, per tentare di guadagnare, certo, di più. Ora, è evidente che quando tu fai credito a tutti e te ne freghi della qualità del debitore, prima o poi fai una brutta fine. E da lì praticamente c'è stata l'esigenza. La banca ha cominciato a soffrire. Cosa ha fatto quando ha iniziato a soffrire? Perché gli spread commerciali si stavano deteriorando, ha cominciato a fare finanza, cioè ad andare a leva sui BTP lunghi. Poi è successa la crisi sovrana, è successa la sofferenza del BTP, la banca ha cominciato ad annaspare e ha dovuto fare ulteriori ricapitalizzazioni sulla spinta della vigilanza, anche perché non c'era più modo di... Le foglie di fico erano terminate, non c'era più modo di coprire il casino che stava succedendo. Tutto il resto è storia nota. Quindi, perché vi dico questo? Perché prendersela con il governatore della Banca d'Italia, che è un primus inter pares pro tempore, ve lo dico tutto in latino, voi che non amate l'inglese, come fosse responsabile di tutto, quando tutti sapevano che questa banca aveva l'esigenza di stare in piedi nel suo assetto che vedeva la fondazione, cioè la politica, controllare la banca, tutti si sono voltati dall'altra parte. Ricordiamo che nel 2011, sull'aumento di capitale della banca, la fondazione si è venduta i gioielli di famiglia, cioè tutte le gestioni patrimoniali sulle quali guadagnava bei soldi, e non è bastato, ha dovuto indebitarsi. E chi e siccome è vietato dagli statuti, okay, e serve l'autorizzazione del Ministero del Tesoro pro tempore, chiesero ed ottennero quell'autorizzazione da Giulio Tremonti, l'uomo che aveva capito tutto prima di chiunque altro sulla storia dell'umanità. Ma la politica era... Possiamo smentire, possiamo smentire anche un'altra bella tendenza, che è quella dell'accordo con i poteri forti. I numeri Barbagallo sono interessanti: solo 107 debitori su 190.000 corrispondono a, diciamo, grandi aziende, complessi superiori a 25 milioni. La stragrande maggioranza dei crediti deteriorati è in realtà dispersa in aziende medio-piccole. Quindi è una politica non, fatemi dire, in tutta Italia, tra l'altro, e neanche solo nel nord-est, come si voleva far pensare col caso di Antonietta. Questo ci dice, sui numeri, caro Mario, che la politica era necessaria per sostenere dividendi in debiti, perché l'azienda non stava facendo reddito, e per scaricare sul futuro le contraddizioni. Però quello che abbiamo capito, fatemi aggiungere una cosa, io magari una sfumatura, non lo so sulla soluzione, perché la soluzione verso il regolatore bancario io lo do solo alla luce del fatto che viviamo in un paese così singolare, che di fronte al rilievo politico di questa vicenda politica, cioè il fatto che nessuno intendesse toccare davvero il ruolo improprio e illegale esercitato dalla Fondazione, cioè dal PD, perché di questo si tratta, e di fronte a questo quindi Tremonti dà l'ok, la Banca d'Italia, da quello che dice Barbagallo e da quello che abbiamo appreso prima, 2 settimane fa, nell'audizione di un commissario che fa vigilanza a Siena per la Banca d'Italia, che ha richiesto esplicitamente dagli avvocati Deutsche Bank sotto giuramento, dice: ma voi l'avete capita la vera natura, cioè spalma debiti di Santorini e Alexandre Santorini? Esatto. Cioè, sì, risponde l'ispettore. E infatti Barbagallo, su questa vicenda, che è la vicenda delicatissima della responsabilità della Banca d'Italia, che poi viene, per così dire, rinverdita con una assai poco credibile versione secondo la quale i documenti riemergono a distanza quando cambia la famosa cassaforte. E invece quello che si capisce dalle parole di Barbagallo, io lì lo volevo, e devo dire mi ha dato la risposta. Perché cosa dice la Banca d'Italia? Sì, su come andassero contabilizzate, la differenza è che a seconda di come contabilizzi il derivato, no? Fair value, mark to market, fai la differenza. Esatto. Sì, Banca d'Italia così tanto, ha ragione l'ispettore che ha detto finalmente la verità, lo sapeva, che apre un tavolo tecnico con IVASS. Ma certo, ma io, Oscar, io non sto, come dire, assolvendo il regolatore o il governatore della Banca d'Italia. Dico semplicemente che ogni tentativo della politica di separare la propria responsabilità da quella del regolatore è patetico, perché il sistema sorregge se stesso. Poi io ripeto, più a Siena. Ma certo, conosciamo quell'ambiente, diciamo, ma quello su cui io veramente vado ai matti è questa cosa che la Banca d'Italia dice: beh, ma noi non avevamo competenze di principi di valutazione contabile. E quindi, però pensa, se apri un tavolo tecnico e poi dici che le banche sono sane, come minimo devi almeno segnalare il dubbio, perché se no stai occultando la realtà dei fatti. Cioè, almeno segnalare il dubbio, non dico altro. Se tu trovi un derivato che è stato creato strutturalmente in perdita accetti che la banca te lo contabilizzi al valore nominale anziché al fair value, cioè al valore di mercato di quei flussi di cassa cassa che sono strutturalmente squilibrati per occultare le perdite, non puoi invocare l'incompetenza formale e funzionale, devi alzare una cazzo di bandierina rossa. Esatto. Se sei un civil servant, alzi questa cazzo di bandierina rossa. Per i nostri ascoltatori, quindi io non assolvo il regolatore. Che la pensiamo così. Devo dirti, a maggior ragione, che a questo punto, che il sindaco attuale di Siena dica, naturalmente, poiché questa settimana è stato confermato che il tesoro considera il 2021, non proprio dopodomani, la data che deve arrivare per uscire, ragazzi. È come no. Che vergogna, devo dire. È come no. Che vergogna. E poi dirò in aggiunta cosa penso sia della vicenda Ilva che di quella all'Italia, visto che nel frattempo ci danno i numeri col contagocce anche di all'Italia e sono numeri che devo dire molto diversi e peggiori da quelli che mi aspettavo. Però detto questo, il sindaco di Siena di fronte a tutto questo dice: io voglio che il tesoro resti con almeno il 10%. Ma che cos'è? E io, no, davvero ragazzi, ve lo chiedo sinceramente, secondo voi è ignoranza di comprensione anche retrospettiva di quello che è avvenuto? O il fatto di essere nostalgici dei tempi protervia, in cui la non so politica... dire, protervia politica, non so che dirti, Oscar. Protervia, non so che altro termine sono usare. Cioè... sono senza parole, però consentitemi di dire che questa vicenda di Alitalia sta diventando singolare. La vicenda di Ilva, tanto per essere chiari, vede la CDP, secondo gli spifferi che vengono dal MEF, rientrare... La CDP che stava nella cordata, che aveva perso la gara per l'Ilva, la CDP rientrerebbe al fianco di ArcelorMittal invece per questioni di antitrust. L'antitrust non c'entra niente con la presenza di CDP. E quindi che cosa significa? Significa che lo Stato ci mette la zampa dentro, e cioè non avevo alcun dubbio che sulla vicenda di Taranto finisse così. Le modalità sono da paese peracottaro, cioè mi dispiace dirlo ancora una volta, l'Italia rischia questo. Ma su Alitalia è la grande novità, perché dopo averci detto che avevano passato un'estate straordinaria, l'estate è la fase in cui tutti guadagnano, le compagnie aeree, invece hanno perso anche nell'estate. Questo è il bello, al netto della componente accantonata, interessi sul prestito, sapete che in legge di bilancio il prestito è stato ulteriormente allungato, arricchito, però hanno comunque perso, non gran cosa, 20 milioni, comunque perdere d'estate significa chissà quanto perderanno adesso con tutta la compressione dei costi, l'ottimizzazione che dicono loro del circolante. Beh, benissimo, detto tutto questo abbiamo il governo che continua a dire non ci sono offerte, alzate le offerte. Non ci sono offerte per l'Italia intera Aviation Handling, questo è meglio che ci mettiamo in testa una regola: se c'è un'azienda in default non è il liquidatore che fa il prezzo. Io non so come in Italia si possa pensare diversamente, e quindi anche quella resterà pubblica. Io credo che questa sarà la cosa vera, resta pubblica in un modo nel quale i numeri certificati dicono che quella compagnia non ha gli aerei e le modalità per stare sul segmento del mercato che continuano a essere in vertiginosa crescita, cioè quello del mercato internazionale transcontinentale, e noi continuiamo a farci le seghe continuando a dire ci serve per il turismo. Io non lo so, caro Carlo Calenda, io ho una grandissima stima per te, e oggi hai reso un'intervista mirabile, io spero molti leggeranno sul Messaggero, comprate il Messaggero per una volta anche se non sei di Roma, c'è un'intervista fantastica del ministro dello sviluppo che fa il punto di tutti i tavoli, di tutti gli argomenti al tavolo per lo sviluppo di Roma, che lui per primo ha voluto per affiancare il comune e la regione per dare una mano a Roma, e vedete come si sta comportando l'amministrazione romana. Lei dice: il sindaco viene ai nostri tavoli come se fosse un turista per caso. Ovviamente è la versione del ministro, però dà l'idea di come siamo messi in questo singolare paese. E quindi ecco le privatizzazioni al contrario. A Siena sono nostalgici dello Stato, nell'Ilva rientra lo Stato, l'Alitalia resta di Stato. Che bellezza, ragazzi. A tra poco. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci tornati, cari ascoltatori, con i compari dei Conti della Belva qui in studio. Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè e il loro umile servo strisciante Lamelli Branco. Questo è il livello della comprensione. Gasteropode più per che Lamelli Branco. Per questo serviamo bene. Il famoso pancia a terra è questo, pancia a terra di Oscar. Pancia a terra, basta! Fatto è una politica da gasteropode. Quando c'è la pausa, voi non avete idea. Cioè, Mario Seminerio ci mette in ginocchio con i ceci sotto le ginocchia. Ma per favore. E ci bacchetta sul sedere. Così è, così. così e così, sì, garantisco. Sì. Sì, sì. Va bene, va bene. Poi ci credono pure. No, dai. Ah, su, facciamo divertire un pochino. Bellissima l'intervista oggi a Repubblica, su Repubblica, di Giorgio Napolitano. Diamo questa grande promessa della politica italiana. Giovane... No, guarda che la zecca più lui delle grandi promesse. Ma chapeau, voglio dire, dai. Ha ne ha fatta qualche tante cose che sulle quali... Però diamo retta a Draghi e non sono in troppo a dirlo. Allora, questa settimana, cari ascoltatori, ha finalmente preso forma l'innovazione con la quale nel diritto tributario e nelle forme per dare risposte ai grandi problemi del nostro tempo, fiscali irrisolti, l'Italia si mette coraggiosamente da sola, visto che malgrado tutte le intese in Europa di fare solo insieme un passo su questa delicata materia, che sarebbe meglio invece affidare alle regolazioni che sono allo studio da parte dell'OCSE, perché è una classica materia in cui o ci sono misure comuni e confronti a tavole transcontinentali, oppure si acchiappano mosche, si fanno figure barbine e ci si produce effetti controproducenti. Però invece no, la versione finalmente definitiva questa settimana ha preso forma con un emendamento che nasce in Parlamento e al quale ha lavorato Massimo Mucchetti, presidente della Commissione Industria della Camera, ex lavorato mi sembra una parola forte. L'ha elaborato, per favore, il 6% col meccanismo che adesso spiegheremo ai nostri increduli ascoltatori che è stato necessario corredare a questo 6% sul fatturato, è una roba senza precedenti al mondo, di cui l'Italia metterà la medaglietta al proprio petto orgoglioso, dicendo: perché noi siamo i grandi pionieri. Come la Tobin Tax, uguale, stesso esito, stesse premesse. Per 4 soldi di gettito, ma facendo girare il mondo e la pancia da risate a tutto il mondo. Allora, per parlare della web tax denominata all'italiana, è con noi il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste e che pregherei, oltre a ringraziarlo di rendersi disponibile il sabato mattina, di spiegare ai nostri ascoltatori, che non è detto conoscano i meandri del diritto tributario, che cosa ha capito e come funzionerà davvero l'imposta sul fatturato delle operazioni italiane, degli over the top. Ma sarà solo sulle imprese italiane, solo sulle imprese straniere? Come si fa a farne una solo per le imprese straniere? Comunque, professor Stevanato, ci illumini e grazie di essere con noi. Buongiorno, grazie a voi per l'invito. Allora, provo a tratteggiare quello che ho capito almeno. Ecco, senza piangere e senza ridere, perché veramente in questi giorni hai veramente dato sfogo a tutti i sentimenti. Prego, Dario. Allora, l'emendamento in realtà è in due versioni, c'è una versione 1 e una versione 2, ci sono alcuni tratti comuni e in alcune cose invece si differenziano. Allora, vediamo. Allora, gli interventi sono di due tipi. Si interviene da un lato a ridefinire il concetto di stabile organizzazione, con una norma interna. Attenzione, quello che l'Italia può fare è ridefinire sulla nozione interna, ma ovviamente senza andare a toccare i trattati, perché per questo ci vorrebbe il consenso degli altri stati. E nel ridefinire la nozione interna di stabile organizzazione, si in realtà va a toccare più o meno, cioè qualsiasi soggetto potenzialmente può essere interessato da questa ridefinizione, non soltanto le imprese dell'economia digitale. Però se riferiamo a queste ultime la nuova nozione, abbiamo una nozione assai vaga e indeterminata, perché si parla di significativa e continuativa presenza economica in Italia costruita in modo tale da non farne risultare una sua consistenza fisica. Già questo, secondo me, solleva perplessità, perché le norme tributarie assomigliano per certi versi a quelle penali, cioè devono essere di stretta interpretazione, devono essere norme impositive, uno deve sapere se è tassato oppure no. Questa nozione dà uno spazio discrezionale di interpretazione assai ampio. Per rendere effettiva questa norma, evidentemente si rendono conto che resterebbe lettera morta se non applicata, se non modificata e inserita nei trattati, c'è un meccanismo che non so come definire. Usando una parola forte si potrebbe dire ricattatorio, cioè ma è corretto. Mucchetti ha parlato proprio di questo, una manovra a tenaglia per costringere questi signori a fare quello che diciamo noi. Esattamente, anch'io ho in mente questa immagine della manovra a tenaglia, cioè se un'impresa estera supera una determinata soglia di vendite in Italia e un determinato fatturato, viene convocata dall'Agenzia delle Entrate per verificare in contraddittorio se per caso rientra nella nuova nozione di stabile organizzazione. Che peraltro, ripeto, la soglia è bassissima, perché sono 1,5 milioni in 6 mesi, quindi bassissima. È molto bassa, ma segnalo che può coinvolgere tutte le imprese estere, cioè se un soggetto estero vende abbigliamento nel nostro territorio e lo fa spedendo i capi dall'estero all'Italia, rientra tra i soggetti potenzialmente interessati dalle richieste di approfondimento dell'agenzia. Mi chiedo che cosa succederebbe se altri stati adottassero una misura uguale e contraria nei confronti delle imprese italiane. Questa è una riflessione urla, grida. Quindi, però, voglio dire, questo meccanismo che possiamo chiamare con termine forte ricattatorio, non so poi comunque che effettività, perché l'operatore straniero dirà va bene, può essere che io rientri nella tua nuova nozione, ma resta il fatto che sono protetto dal trattato e quindi questo non... è un tentativo che mi pare sulla scia di tanti altri del passato, che però grandi risultati non hanno dato. La seconda cosa, forse quella più di cui più si è parlato, è questa nuova tassa sui ricavi, cioè sui corrispettivi di prestazioni, di servizi, di attività pienamente dematerializzate. Qui ci sono una serie ancora più lunga di problemi, sia di diritto interno che nei rapporti internazionali. Allora, sul piano interno si possono rilevare alcune cose. La prima è che è ancora una volta una norma che demanda a un decreto ministeriale successivo l'individuazione di queste attività, ma qui tutti sanno che è una materia coperta dalla riserva di legge, quindi come fa il legislatore a individuare delle attività non meglio precisate e a rinviare la precisazione delle stesse a un decreto senza violare il 23? Ma lo vio, tanto in Italia la violazione dei due articoli della Costituzione in materia tributaria, come sai, è prassi. La seconda questione, nei rapporti con gli altri stati, è che una norma del genere, se ne sono evidentemente accorti, se applicata solo a imprese straniere, cioè a imprese che vendono o prestano servizi in Italia di quel tipo, è discriminatoria. Che cosa hanno pensato per evitare la discriminazione? Hanno pensato di estenderla a tutti, cioè anche alle imprese italiane e alle stabili organizzazioni di imprese estere. A quel punto però, per evitare che le imprese italiane subiscano una doppia tassazione, perché pagherebbero sia l'imposta sul reddito che questa accisa sui ricavi, quest'ultima accisa viene a trasformarsi per queste imprese che già producono redditi in Italia in una sorta di ritenuta in acconto sui redditi dovuti, il che pone due problemi. Allora, lascia intatto secondo me il tema della non discriminazione, perché appunto diventando una sorta di acconto sulle imposte sui redditi per gli italiani e invece un'accisa non recuperabile in alcun modo alle straniere, discrimina queste ultime. Il secondo punto è che mette nei guai anche le imprese italiane, perché applicando una imposta sul fatturato non è detto che ci sia copertura nell'IRES dovuta sugli utili, e la norma dice espressamente che la accisa in questione è recuperabile soltanto attraverso il meccanismo di compensazione, ma non mediante rimborso. Quindi potrebbe verificarsi un effetto perverso a carico anche delle... Si verifica esattamente così, Dario. Io ho startup che stanno investendo su internet per promuoversi e che non faranno utili per anni e che pagheranno il 6% di tasse e non vedranno mai più rimborsati queste tasse. Quindi di fatto le pagano le imprese italiane queste 6% più. Complimenti a Mucchetti e al governo. L'ultimo punto che tocco, però vi faccio notare che sia nell'ipotesi che resti una deduzione, sia nell'ipotesi che a quel punto, di fronte alla constatazione delle due cose che avete appena detto entrambi, la tramutino in rimborso, comunque ci sono tutti gli estremi per l'aiuto di Stato, chiusa parentesi. La terza questione che si può notare a questo stadio è che è discriminatoria anche sotto il profilo di che cosa va a tassare rispetto a cosa non va a tassare e delle modalità di vendita che sono incluse o escluse. Sotto il primo profilo l'attività deve essere pienamente dematerializzata, quindi in tutti gli altri casi, situazioni in cui diciamo società che dall'estero vendono in Italia senza avvalersi una stabile restano fuori da questa norma. Quindi l'e-commerce fisico per esempio non è incluso, per chi parla per esempio Amazon, mi dispiace. Il commercio elettronico indiretto resta fuori. Ecco. La seconda cosa è che qui siamo a un paradosso, perché l'applicazione di una ritenuta in acconto come modalità dell'imposta è successiva all'individuazione del reddito tassabile, cioè prima individuo quando un reddito tassabile, poi scelgo se eventualmente tassarlo mediante. E in questo caso qua avviene il contrario. Perché avviene il contrario? Perché si tassano esclusivamente le prestazioni fatte nei confronti di sostituti d'imposta. Quindi se io invece vendo a un privato dall'estero, o presto servizio al privato, non vengo tassato. E questa è una cosa che non si è mai vista, cioè non è possibile che la tassazione dipenda dalla natura giuridica del cliente. Qui io mi fermerei. Non hai lasciato pietra su pietra. Noi ci dirigiamo all'uscita adesso. Noi ci dirigiamo all'uscita, ma naturalmente, cari ascoltatori, ve lo diciamo. Ecco, no, limpida esposizione tecnica, io spero sia chiaro a voi tutti. Naturalmente, totalmente minoritaria. Ciò che sentite invece sono gli inni trionfanti di chi dice: impartiamo una lezione ai giganti elusivi ed evasori della Zuckerberg. Ecco, siamo un paese che si inventa in questa materia fiscale dei capolavori, ma direte voi, ma non è vero, caro Oscar, questo governo ha firmato un documento con altri grandi paesi europei, con la Francia, con la Germania, con la Spagna, e, cioè, sì, appunto, infatti quella però era un'iniziativa comune, questa è un'iniziativa che noi assumiamo da soli, che in ogni caso, prima ancora delle eccezioni giuridiche che verranno inevitabilmente sollevate, e che comunque si traduce anche in un gettito stimato ridicolo, perché all'inizio stiamo parlando di una manciata di milioni, gli è chiaro che fanno un buco nell'acqua, anche se sui giornali sembra che saranno miliardi. Benissimo, detto tutto questo, nessuno ci segue, come diceva Mario Seminerio a proposito della Topin Tax, esattamente così, con la differenza che questa volta il danno fin dall'inizio viene tutto traslato sui clienti italiani. Tutto traslato sulle imprese giovani, sulle imprese che stanno investendo, sui consumatori. Questo è il risultato, come tutti i dazi, appunto la Cina fa un passo indietro, l'Italia fa un passo avanti. Colpisce l'industria 4.0, come commentava Giampaolo Galli ieri su Twitter. E quindi rischia allegria. Ritorsioni sul Made in Italy. Assolutamente sì. Allegria. Però allegria. Alimenta i comizietti da fine settimana allegria. Delle allegria. Nostre cariche istituzionali. Torniamo tra un minuto. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. A proposito, cari ascoltatori e cari compari dei conti della belva, ieri è avvenuto questo sciopero, se ne è parlato tantissimo per il Black Friday al centro logistico in provincia di Piacenza di Amazon in Italia, stiamo parlando di oltre 2000 dipendenti contrattualizzati e con il rafforzamento di oltre 2000 in lavoro in somministrazione per i punti di picco. Siamo oramai entrati ufficialmente nel punto di picco natalizio, Black Friday, non mi fate ripetere tutte le solite storie, ma il punto è che ancora una volta non si riesce a capire com'è andata nel senso di ma quanti hanno partecipato, perché ieri la forbice delle valutazioni che sono state espresse da una parte dall'azienda che diceva il 10% e dall'altra da chi aveva organizzato lo sciopero dei dipendenti, cioè il sindacato, era tale che uno diceva ma è possibile che non riusciamo mai a capire come vanno le cose nel nostro paese. E siccome è una vicenda clou per l'esito che ha avuto, no, per l'impatto prima, dopo che avrà, perché riguarda oltretutto i contratti lì, ma ha immediatamente rifocalizzato l'attenzione su tante vicende di aziende nuove che hanno un modello di offerta completamente nuovo. Non a caso sono ricomparse su tutti i giornali e sono riprese le proteste a Deliveroo, Foodora, eccetera eccetera eccetera. Allora partiamo intanto dai fatti. Ieri, chiediamolo a chi l'ha organizzato e poi ci spiega il perché, le richieste ancora una volta e se si smuove qualche cosa. Ma intanto, come è andata ieri in questo sciopero? Abbiamo con noi, e lo ringrazio, Fiorenzo Molinari, che è il segretario generale della Fincamps. Sapete che il contratto per i dipendenti di Amazon Italia è quello del commercio, quindi questa è la filiera di cui lui è il segretario generale della CGIL di Piacenza. Molinari, buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Com'è andata? Ma per noi, dunque, intanto io sono rimasto lì dalle 5 di mattina e siamo stati lì fino alle 10 alla sera per l'ingresso dell'ultimo turno, perché entrano turni scaglionati. Allora, che ci sia una diversità di percentuali, questo si può andare a capire rispetto a questo dato, che noi teniamo conto solo della percentuale dei dipendenti Amazon diretti, quindi di quelli che vengono chiamati blu. Amazon ha dei dati, credo forse anche giustamente, però c'è questa dicotomia, che tiene conto di tutti i lavoratori che prestano servizio in Amazon, quindi anche di quelli somministrati. E, In questo momento quelli somministrati sono addirittura superiori a quelli diretti, alla luce del fatto che siamo in un periodo di picco. Quindi il loro 10% sarebbe già per noi quasi un 30%, questa una questione matematica. Dopodiché ho notato questo tipo di strategia, ma che insomma poi ognuno usa la sua tattica, che molte persone che Amazon pensava che lo sciopero l'avessero lo avrebbero fatto, le ha messe in riposo, quindi ha deciso che quel giorno è di riposo, così si abbassano. Vabbè. Non ci sta spiegando adesso, senza eccedere nei dettagli, però ci sta spiegando che ci sono delle ragioni oggettive per cui si può arrivare anche a forbici di questo tipo. Ok, ma esatto. Il punto è, andiamo al punto vero. L'azienda dice: no, scusate, per quelli che sono contrattualizzati a tempo determinato, e che sono tanti, quindi tanto per capirci, cari ascoltatori, Amazon ce l'ha, come vedete, una stabile organizzazione sulla quale paga le tasse, le imposte. Assolutamente. Tra l'altro applica il contratto nazionale di lavoro, esatto, del commercio. L'azienda dice però noi già vi paghiamo di più del, azienda dice ovviamente del minimo, però insomma fa una cifra di retribuzione, dice che non è pregevole, ci sono già i bonus di produttività di fine anno eccetera eccetera, prima di andare a scioperare ragioniamo, però non stiamo parlando di una condizione di sfruttamento di lavoro. Cosa rispondete a questi argomenti, che sono quelli che l'azienda ha dato a tutti i giornali? Adesso io non so se la parola sfruttamento è quella giusta. Credo anche che ci sia uno scontro tra due culture, due filosofie. Dunque, innanzitutto è giusto fare chiarezza, loro non danno di più, danno quello che dice assolutamente il contratto collettivo nazionale, che comunque è stato uno strumento che ha portato certe conquiste, certe rivendicazioni. Danno una cosa in più, quello è vero, dopo un anno danno 50 euro che però vengono assorbite dal passaggio di livello che siamo riusciti noi a conquistare, alla luce del fatto che loro avevano un'interpretazione un po' bizzarra del contratto, e dopo un anno e mezzo in cui uno fa il, diciamo, magazziniere in modo volgare, ma poi insomma non è proprio la parola precisa, ha un passaggio dal quinto livello al quarto livello, che è un livello superiore. Poi loro non danno nulla in più. Aspetti, però per questo le chiedo, perché nei comunicato che è stato riportato da tutti i giornali, leggo testualmente, secondo la società nelle attribuzioni sono, virgolette, inclusi benefit come gli sconti per gli acquisti su Amazon, ok, poi aggiunta l'assicurazione sanitaria privata e assistenza medica privata. Ci sono o non ci sono? Allora, l'assistenza medica, c'è un'assistenza integrativa, e questa assistenza integrativa si chiama Fondo ES, che suscita direttamente dal contratto. Questa assistenza sanitaria integrativa, insomma, c'è, però nasce appunto dalla contrattazione. No. Detto questo, così come i buoni pasto, però ci sono anche in quantità. No. Quello avete ragione. Allora, ci sono tantissime aziende che danno il buono pasto, e la domanda è obbligatorio dare il buono pasto? Risposta: no, vabbè. Però, ripeto, allora, noi non stiamo qua a difendere, no, però, era solo per capire cosa c'è e cosa non c'è. Avete ragione, ma qui vengo al punto fondamentale che noi vogliamo portare avanti. Perché lei ha detto, allora, comunque sono due visioni, quindi ci dia la sua. Guardate, quello che dà in più Amazon, qualcosa che dà in più c'è. Però, guardate, è lì la finezza, è un'elargizione unilaterale. Dunque, le spiego, in tutte le aziende multinazionali... Voi dite dobbiamo contrattare, questo è il punto, il disconoscimento del ruolo. Perfetto, perché in America loro cosa vogliono? Io voglio parlare con ogni singolo dipendente. Questo è il punto. Sì, invece questo... noi diciamo che... No, ma io la ringrazio per averlo chiarito, perché è esattamente questo, ma anche da fuori si capisce che è così, sì, certo. Per chi però segue le vicende sindacali, per chi è a casa, i giornali secondo me non l'hanno spiegato bene, cioè i giornali tendono, e li capisco, non li sto condannando, a accomunare, cioè il dipendente di Amazon non è quello che in bicicletta fa le consegne, per essere chiari, stiamo parlando di un dipendente contrattualizzato da... Come dice lei correttamente, io la riconosco in pieno la correttezza, dice danno anche un po' in più. Il problema è, loro tendono ad avere un rapporto diretto individuale col lavoratore, e ci disconoscono, mentre noi invece al contrario vogliamo trattare in azienda. Noi siamo, questo è e capisco che è un modo diverso, proprio radicale, lo capisco. Guardi dottore, voglio però sottolineare due aspetti. Il fatto di non riconoscere il sindacato, come spesso avviene, magari anche qualche politico lo sta dicendo, dobbiamo chiudere. Vuol dire non riconoscere il lavoratore. No, ma ripeto, a me piace, ci torneremo, certo. Perché almeno così Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Eccoci qua, tornati in diretta con il compare dei conti della Belva, Mario Seminerio, Carlo Alberto Carnevale Maffè, il loro umile servo Oscar Giannino, e abbiamo ancora con noi perché in effetti stava andando avanti il tempo concitato per il giornale radio, abbiamo interrotto, però il ragionamento era chiaro. Quello che avviene adesso in Italia è un confronto tra due modalità, non è un confronto tra sfruttamento allo stato puro, come i giornali hanno un po' esagerato secondo me a dire, ma uno scontro radicale, questo sì, tra due concezioni, perché l'azienda preferisce il contratto diretto con i lavoratori che hanno il loro regolare contratto, l'azienda dà anche in più dei minimi, ma non è questo il punto è, vogliamo disintermediare il sindacato. Allora stavamo ragionando esattamente di questo, che secondo me rende ragione di quello che sta avvenendo, perché sono due impostazioni molto diverse, come ovvio, e ne stiamo ragionando con Fiorenzo Molinari, appunto segretario generale della Filmacamps CGL di Piacenza. Però siccome l'ho interrotta, le ridò la parola così concludiamo il ragionamento. Guardi, lei ha capito benissimo, poi però c'è un'altra contraddizione che secondo me viene colta poco. Allora, io la prima volta che sono entrato in Amazon mi è sembrato di entrare in uno squarcio temporale. Cioè, per dire, la vecchia catena di montaggio adesso si è risolta, insomma le nuove fabbriche della Fiat sono in Italia. Non siamo più nel fordismo, grazie a Cielo. Sono straordinariamente efficientissimi, anzi il robot è messo... Mentre invece la macchina umana è messa in condizione di lavorare benissimo dal robot, anche se ha dei problemi. Si lavora assolutamente in modo fisico, le persone... percorrono 18-19 chilometri al giorno, e questa è un po' una contraddizione, perché non è che non c'è la tecnologia adeguata per inserire dei robot. A questo punto le persone si trovano dopo un anno, due anni di lavoro in condizioni non solo muscolo-scheletriche, che quella è una cosa importante, ma anche psicofisiche, nel senso... C'è un grande logorio, fisico proprio, e psicologico. Si ricorda certi tempi moderni? Ecco, siamo arrivati nei tempi moderni. È vero, ma la soluzione Molinari è l'automazione, come già succede negli altri magazzini di Amazon, perché Piacenza è il primo, gli altri due sono nettamente più automatizzati, quindi la soluzione è la sostituzione del capitale lavoro. Io non sono un luddista, io non blocco quello, ma nel frattempo ho a che fare con questo, e questo lo vorrei gestire. Confrontarvi direttamente con l'azienda. Questo è un punto giusto. Noi negli anni 70 abbiamo puntato solo sulla ridistribuzione della ricchezza, e quindi ci siamo ritagliati un ruolo che non era un ruolo di protagonista. Io voglio dire qualcosa, cioè i lavoratori, la CGL vuole dire qualcosa rispetto a quella che è anche la produzione della ricchezza. Se in questo momento io lì ho questo modo di lavorare, le dico, io ho visto uno squarcio temporale, io cerco di risolvere quel problema. Chiarissimo. Se poi arriveranno l'automazione e i robot, cercherò di gestire quello, perché mi interessa di gestire anche quello. Poi la ridistribuzione della ricchezza c'è, ma il protagonismo del lavoratore... È chiaro. Secondo me era un grande merito che avremmo reso a tutte e due le parti, all'azienda, ma anche a voi, ai lavoratori, rappresentarlo, per come in pochi minuti siamo riusciti. Quando io vedo i pezzi di genere che sono costruiti ignorando la realtà degli stabilimenti e dei problemi che ci sono, io dico che secondo me è la colpa dell'informazione. Me la prendo a nome di altre che non lo ammetterebbero mai, perché le semplificazioni ideologiche, a volte i primi che le fanno, prima ancora del sindacato, dei partiti, sono quelli dell'informazione. E io questo ho visto nella vicenda, a piene mani, nella vicenda di cui stiamo parlando, cioè il motivo per cui c'era lo sciopero. Il motivo è: noi vogliamo che sia riconosciuto il ruolo del sindacato per parlare dei problemi che ci sono, punto. Poi si può essere d'accordo, no, però questo, cari colleghi, che invece avete scritto come se fossero, diciamo, quelli che raccolgono i pomodori, non è così. E non è così, non significa difendere le ragioni dell'azienda, significa dire: parliamo, se vogliamo fare il nostro mestiere, dei problemi che ci sono. Grazie a Fiorenzo Molinari, perché secondo me ci ha consentito anche lui, con la sua chiarezza, di precisare la questione, che, come vedeva Molinari, nasceva da una mia autocritica verso la categoria a cui appartengo, non verso di voi. Buon lavoro intanto, sentiamo come la pensa, credo, su questa vicenda, no, sulla World Tax, forse non lo so, Flaviano, che si chiama dalla provincia di Monza, Brianza. Prego, Flaviano. Sì, buondì Giannino, buondì a tutti. Volevo dire una cosa, signori sindacati, no? Pronto? Sì, la sentiamo. Si sente bene. Allora, signori sindacati, se vogliono ottenere qualcosa, no? Allora, c'ho due cose da accennare. Allora, la prima cosa è che vanno a trattano e gli dicono: ok, allora, ogni miliardo di fatturato voi date i bonus ai lavoratori, primo. Al secondo miliardo date bonus e almeno uno è incentivato. Tanto, scusi, i soldi che l'operaio prende in più, poi da chi li spende? Li spende dall'Amazon, li spende dalle multinazionali, li spende chi è in mano al mercato. Questa è una prima cosa. La seconda cosa, è molto rischioso che Amazon detti i prezzi a chi produce. Chi produce avrà sempre meno forza nel mercato, perché la forza l'avranno questi personaggi che non rischiano niente, metteranno in crisi sicuramente la produzione. Ma senta, perché non l'abbiamo mai sentito dire dei prezzi d'acquisto praticati dalle grandi centrali d'acquisto delle Coop? Lei sa qual è la percentuale media di abbattimento per specializzazione agricola ortofrutticola italiana del prezzo d'acquisto praticato dalla grande centrale d'acquisto Coop? Perché su quello non mi fa lo stesso ragionamento? Guardi, io credo che ci sono evoluzioni dell'offerta e aziende capaci di interpretarle. Non ho detto che sposo in tutto quello che fanno, però voglio dire, questo che dice lei, cioè i colli di bottiglia tra domanda e offerta, quando sei protagonista della distribuzione, esistono da che esiste la grande distribuzione, sia fisica o sia tecnologica digitale, solo che ce ne rendiamo conto solo adesso? Comunque, giusto per capire, Amazon al mondo fa meno di Carrefour e fa un quinto di quello che fa Walmart. In Italia ha una quota di mercato che non arriva all'1% sul totale. Pura quindi ideologia. Cioè, che questo francamente possa cambiare i prezzi della produzione, onestamente, su base statistica è una parallelo, fondata. Il parallelo con le centrali acquisto delle Coop rispetto ai produttori mi sembra perfetto. Adesso non è per suonarcela e cantarcela, però cioè, alla fine qualcuno è più benedetto di altri. Appunto. E anche in quel caso però il regime di tassazione che è diverso, nessun problema. E anche in quel caso il canale di raccolta dei capitali, però senza avere le garanzie, senza la vigilanza, vi va bene, perché i prestiti soci delle Coop, che poi assumono anche le quote di nuovo in banca, vi va bene quello, non protestate. E insomma, su ragazzi, ma non è che possiamo protestare le stesse cose che abbiamo da prima, ci vanno bene, e se le fa qualcun altro ci vanno male. Allora battiamole per tutti, no? Gabriele da Siena, che ci dice, Gabriele? Buongiorno Giannino. Che le dice? Allora, intanto l'avevo conosciuta quando è venuta in Toscana qualche anno fa. Le volevo dire che avete dato un taglio al problema della fondazione, al Monte dei Paschi, che secondo me, cioè, voglio dire, è partito dal punto sbagliato, perché non avete fatto riferimento a quello che ha scritto la Banca d'Italia il 6 di marzo del 2007. 6 marzo 2007, c'è tutta la relazione sull'ispezione alla Banca Anton Veneta. Io ce l'ho a casa, se vuole gliela mando. No, ce l'ho anch'io, non tema che ce l'ho anch'io. Allora, se lei legge quell'ispezione, c'è scritto che quella banca, mi scusi il termine, era una sciofeca, non c'era un settore che andava bene, che stavano in piedi solo ed esclusivamente perché c'era la capogruppo che gli aveva fatto finanziamenti, che era da rifondare tutta. Dopo sei mesi esatti, Monte dei Paschi la compra per 9 milioni e 7 miliardi. 9 miliardi e 7 senza fare il ridicolo. Sì. Mi siete? Sì, come allora, no, come in questo, allora, tutte le operazioni sono venute dopo, che tutte sbagliate, per carità, ma sono state fatte solo ed esclusivamente per tappare il buco. Cioè, lei dice il problema della fondazione, della perdita di reddito, no, non allora, esiste. La fondazione dove ha sbagliato? Perché io sono uno di quelli che in consiglio comunale ho fatto una mozione e ero contro alla fondazione. Ma al di là di questo, ci dica perché, no, non abbiamo tempo, ci dica perché. Lo sa perché? Perché loro perché la fondazione voleva continuare a controllare, certamente. E non l'abbiamo detto, la scusi. Lei l'ha detto, ma la colpa di tutto però, se l'acquisto dell'Aston Villa non veniva fatto, tutti questi problemi non c'erano. Ah beh, certo. Chi doveva impedirlo l'acquisto dell'Aston Villa? Uno poteva essere la fondazione, che era l'azionista di maggioranza e gli poteva dire, lo sa Mancini cosa rispose a tutti i capigruppo di fronte a una mia domanda? Quando gli diceva, scusami Gabriello, quando l'hai saputo dell'acquisto dell'Aston Villa, dato che eri l'azionista di maggioranza? E lui gli sa cosa rispose? Te lo posso dire dopo al bar, tanto che il sindaco gli dice no, lo devi dire ora. Appunto, ma no, e quando l'azionista viene così a girare, non conta niente, insomma, vi siete illusi, che pensavate di avere in mano la grande leva della banca, non contavate niente invece, questo è stato in sintesi la fondazione, che seppur indebitata con la politica che faceva l'occhiolino, poi lei dice a lei, non ci fosse modo di dare 10 miliardi, ma ci sono stati, torniamo tra un... Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della belva. Eccoci qua, cari compari. Sempre Mario. E sempre Carlo Alberto. No, dimenticate che dovete declinare la vostra generalità. Esatto, dopo, qui siamo di fronte ai documenti. Alle vere forze che rappresentano la legalità e la solidità. Gli ascoltatori, cari. Sì, dopo il venerdì nero c'è questo sabato grigio. Domani sarà una domenica bianca, ragazzi. Vai a sciare, questo qui. Esatto. Beh, a tutte, io no, invece. Allora, detto tutto questo, cari ascoltatori, nel frattempo, mentre per tentare di ricucire il rapporto tra PD e MDP, la manovra finanziaria, cioè la spesa pubblica e il deficit salgono, perché l'effetto di questa ridicola vicenda sulle pensioni è questa. Nel frattempo però ci sono novità ogni settimana, quelle un po' più difficili che vadano sui giornali, che riguardano anche ciò che si scopre esservi nel testo della legge di bilancio per i contribuenti. E anche questa settimana con il nostro amico dottore tributarista dall'accento alto atesino, cioè Alessio Arzo. Qui ridono, ma ragazzi, ma io lo dico ogni volta, ma perché per voi forza non ridiamo, è un mito, ma roba da matti. Oh ragazzi, Alessio, qui non ti rispettano i miei compari, come stai? Sto benissimo, sempre onorato di essere del vostro. Ecco, pure tu vi sfotti pure. Oh, ma siete proprio l'addio mi fai, poi vi accoppia. Loro sfottano me, tu sfotti me con un orato. Senti, ma meno male che abbiamo legge finanziaria. Ma pensa che fanno in Germania, che si mettono d'accordo 5 anni prima su tutti i dettagli. Noi invece ogni anno abbiamo questa florilegio di novità, meno male. Paese ridicolo. Paese ridicolo. Adesso, con Alessio scoprirete che le chiacchiere sui sismi, le ricostruzioni, la necessità che tutti capiscano l'importanza dei strumenti assicurativi sugli immobili, ecco, di quelle si riempiono le pagine. Poi uno va a grattare articolo per articolo legge di bilancio e scopre invece, Alessio, che cosa? Beh, scopre innanzitutto la guerra santa contro i portatori strani di partita IVA, perché hanno confermato tutta una serie di provvedimenti che ci hanno spacciato come imposti dalla rigidità di bilancio. Poi avete accennato che in realtà la finanziaria è lievitata miracolosamente dai 20 iniziali ai 27. Quindi cito rapidissimamente, l'articolo 77 è stato confermato, quindi è stata estesa la fattura elezione elettronica tra privati con decorrenza dal 1 gennaio 2019. Le conseguenze anche penali previste dall'emissione delle fatture tradizionali sono le peggiori previste dall'ordinamento. Perché dicono, virgolettato, la fattura non si considera giuridicamente emessa, dimostrando un dono della sintesi che onestamente mi ha stupito, perché è alquanto infrequente nel legislatore, che ci dimostra che quando vuole può. È fuorviante e illusorio che gli effetti siano stati diffusamente sminuiti, definendola sanzione indiretta, cioè tipo veramente la sculacciata del babbo al figlio. Ma voi sapete bene, e tutti i portatori di partita IVA sanno cosa vuol dire, una fattura non si considera giuridicamente emessa, conseguenze penali di ogni tipo. Poi cito l'articolo 91, che purtroppo conferma il rinvio dell'IRI a babbo morto, diciamo noi. E lì chi ci ha creduto è stato scemo, e vedremo, adesso 2 miliardi in più, è ok. L'articolo 88, che è stato un altro degli aspetti di cui nessuno ha parlato, come giustamente detto prima, l'assoggettamento al 26% di plusvalenze e dividendi da partecipazione qualificata, che è tradotto la quasi totalità delle micro SRL sul territorio nazionale, con la condizione familiare e bla bla. Quindi hanno equiparato, c'è stato un innalzamento della tassazione dal 2007, che è passata dal 40%. 49,72 l'anno scorso, il 58,14, adesso l'hanno equiparata alle partecipazioni non qualificate, per la gioia di tutti, con la tassazione non da poco. E qui stiamo parlando dei piccoli, cari ascoltatori, piccoli, micro, quelli che vi dicono che invece sono al centro dell'attenzione delle forze politiche. Ok, poi adesso chiediamo appunto di spostare cortesemente almeno l'articolo 77 dalle misure di contrasto all'evasione fiscale, e soprattutto di giurare sulla Costituzione che assolutamente non imporranno alcun revisore tascabile ai già vessati portatori sani di partita IVA. Perché non dimentichiamoci che qualcuno, l'8 marzo 2017, in audizione alla Commissione parlamentare per la semplificazione, ha aperto in maniera inequivocabile la fatturazione elettronica tra privati, specificando però che il successo è subordinato a dei certificatori in grado di controllare il meccanismo, identificando chiaramente quale figura professionale potrebbe essere questa. Quindi consiglierei a tutti, cari clienti, andare a parlare con chi di dovere, perché a me, se andate a leggervi il virgolettato dell'audizione, io pensavo fossero state proferite. Ma tu lo farai il certificatore oppure no? Non ci ho sentito. Lo farai il certificatore oppure no? Ma io assolutamente, innanzitutto i tributaristi, quelli qualificati, sono i tax advisor, perché c'è una confusione di ruoli a livello italiano, perché noi non facciamo assolutamente il lavoro di commercialisti, esatto, che grandemente fanno lavori di curatele, collegi di revisione, lasciamo collegi sindacali, incarichi di revisione, con tutto quello che è servito nella situazione generale del paese, per cui onestamente non mi pare abbiano dimostrato questi tipi di controlli a posteriori, attenzione, di avere questi grandi successi, esatto, qualche tipo di vantaggio, senza considerare tutta la serie di perizie firmate, citavate la situazione bancaria, sì, infatti. Ma assolutamente, cioè vuol dire, per quanto riguarda le certificazioni, in ogni caso è il problema di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, e anche la traslazione sul cliente di questi costi di digitalizzazione. Siamo qui per questo, noi siamo sostituti della spesa pubblica per la digitalizzazione pubblica, e voi siete funzionari addetti ma pagati da noi, dai privati. E invece, allora, andiamo su questa storia delle polizze assicurative. Esatto, cioè l'aspetto delle polizze catastrofali, dove ho notato in bilancio una certa disattenzione a danno di tutti, in questo caso fa tutti felici al contrario. Mi permetto di evidenziare, appunto, perché non c'è alcuna traccia nei media, sui premi assicurativi pagati dal 2018 per le polizze aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, attenzione, quindi non parliamo solo di sisma, no, come quelli ieri, parliamo di inondazioni, alluvioni, inondazioni, rischio idrogeologico, insomma, quello è esatto. Stipulata relativamente ad unità immobiliari ad uso abitativo, attenzione, e di questo ritorno tra un istante. L'articolo 77, il disegno di legge di bilancio, ha introdotto due novità. Uno, la detrazione IRPEF del 19% sul premio pagato, e la seconda, che è un aspetto abbastanza ignoto a molti perché va sulle imposte, sulle assicurazioni, è l'esenzione dell'imposta ordinaria del 22-25 sui premi del ramo danni, quindi è stata spostata nella tariffa C, una cosa, non mi dilungo. Non potranno quindi fruire della detrazione tutti gli immobili diversi da quello abitativo, anche se posseduti da privati, che rientrano in categorie catastali A10, parlo per me, l'ufficio, lo studio, nonché l'intero gruppo C, negozi, magazzini, laboratori, autorimesse, esempio. Hanno escluso anche i lastrici solari, che in tempi di crisi è una delle, secondo me, delle più scarne possibilità, però un po' concrete, per costruirsi una casa. È la solita miopia No, ma politico-burocratico. Ma questo però, non so se sia miopia, questo è pazzesco, cioè paese che ogni volta riscopre a ogni disastro l'emergenza idrogeologica, i sismi, eccetera, eccetera, dopodiché fa chiacchiere, cioè, ci sono due capitoli interi nella relazione conclusiva che il rettore del Politecnico di Milano Azzone ha fatto chiudendo i lavori che dovevano incardinare Casa Italia, di cui poi si è persa traccia, quella che deve darsi il compito strategico di riorientare le scelte proprio a cominciare dalle aree con maggior rischio sismico e idrogeologico. Di queste si dice che una cosa fondamentale è la politica assicurativa, e noi però diamo i benefici fiscali, non li diamo alle imprese, non li diamo, cioè, e sono esclusi i beni strumentali, i capannoni, eccetera, eccetera. Ho capito bene? Sì, sì, hai capito perfettamente. Ma, cioè, ma come cavolo, cioè, tu dici una svista, ma non so se si tratta di svista, qui stiamo, guarda, proprio parlando di una roba che non... Cioè, siccome si vota, allora, votano le persone, io do gli sgravi per polizia catastrofe solo alle persone. Imprese, cazzi vostri. Poi, naturalmente, io vi farò percuotere, farò grandi campagne politiche pubbliche dicendo che le imprese non fanno occupazione nelle aree del sisma perché vogliono scappare a prescindere dai danni. Però intanto a voi i benefici non ve li do. No, e poi la cosa, come dicevate giustamente, non pone in priorità uno questo, la ricostruzione del tessuto economico. No, al contrario, disincentiva ogni investimento in zone sismiche, perché è chiaro che se io sono un'impresa devo scegliere dove investire, non investo in zone dove non ho la protezione assicurativa e le sue deduzioni fiscali, molto semplice in principio. Capito. Io non lo so. Io dirò a Pirozzi, il sindaco di Amatrice, che si candida per il centrodestra, no, si candida come presidente della regione, mi pare di capire, senza azione centrodestra. Questo glielo segnaliamo e diventa l'argomento della sua campagna, perché questo non l'ha detto veramente nessuno, quindi... No, ma poi ben pensante, attenzione, perché ovviamente dobbiamo metterci sempre a ragionare con la testa degli altri. Escluso l'intero gruppo D, appunto, capannoni, fabbriche, alberghi, case di cura con fine di lucro, eccetera, perché ben pensanti diranno che questi immobili, essendo prevalentemente posseduti da portatori sani partita IVA, hanno i costi per polizze catastrofali che deducono. Ma allora io rimando, dato per buono che se uno è proprietario dei beni come privato non gli spetta la detrazione, esatto, perché la disparità di trattamento per le partite IVA? Appunto. Domanda. Questa fattispecie è più che encomiabile, perché sappiamo bene, ma anche a livello di contenimento della spesa pubblica, perché l'intervento salvistico di uno stato anemico di risorse finanziarie, andate a vedere l'articolo 65 e 66 del disegno di legge di bilancio, ma tutto il titolo sesto contiene misure per i territori colpiti da eventi sismici. Cioè, domanda mia, perché questa encomiabile fattispecie non ha ispirato gli artifici impositivi del legislatore ideando un'incentivante super deduzione per primi assicurativi? La potrebbero chiamare, guarda, Wonder deduzione. Una Wonder, cioè, esatto, invece cioè, ma, la Super Lipper ce l'abbiamo già. Ma non ha neanche bisogno di prendere a prestito spesa dal nostro futuro, come hanno fatto per i super ammortamenti. Sì. Cioè l'ampliamento dei benefici del detrazione e deduzione a favore di mobili strumentali per natura e destinazione avrebbe una funzione salvifica. Cioè, ma io dico, vabbè, dato per uno che lo Stato adesso sta finanziando per i terremoti del 2012, andatevi a vedere la bozza della legge. Cioè, è banale. Come fanno a non tendere al doveroso azzeramento del gap temporale tra il blocco dell'attività produttiva e il riavvio della spesa? Ecco, su questa domanda retorica, Alessio, noi dobbiamo interrompere. Grazie di averci illuminato su l'occhio a cui nulla sfugge del legislatore tributario. Questo piccolo particolare che determinano, chissà se consapevoli o meno, effetti di questo tipo sulla ripartenza degli investimenti. Perché, come avete capito, sulle polizze catastrofali, no, capannoni e cose eccetera, per un certo tipo quando di soggetti, siamo un paese no, nettamente sottoassicurato proprio su questo punto, dopodiché c'è il terremoto e tutti a chiedere la funzione di copertura dei costi dello Stato. Grazie Alessio, grazie, alla prossima, intanto torniamo tra un minuto. Della belva. Ed eccoci tornati qui. Naturalmente per irritare i miei compagni gli dirò di nuovamente di presentarsi. Mario. Caro Alberto. Oscar. Facciamo queste battutacce, no? Ragazzi, questa compagnia di giro verrà avvivata. La prossima settimana vi sottoporrò a una serie di scherzacci, e dovrete reagire all'altezza del vostro aplomb. La settimana prossima sono da remoto, quindi mi posso nascondere. Non sarò in studio settimana prossima. Ecco, bastava dirvi, faccio gli scherzacci e adesso spariscono questi cattivi. No, io sono qua invece e non mi scalzi, caro Oscar. No, perché cari ascoltatori, guardate che noi vi terremo compagnia sia il sabato prima di Natale che lunedì. Noi il sabato 23 ci siamo regolarmente, e così ci siamo anche il sabato. Dovreste vedere la faccia di Mario Seminario mentre sto declinando, che ci siamo anche A Nightmare Before Christmas. Esatto, il sabato, e saremo la parte più lieta del vostro Natale. Tanto lo sappiamo che nella Natale fate tutti finta di essere felici ai deschi familiari. Sappiamo leggere nei vostri cuori e leggiamo la percentuale di costrizione in questa cerimonia. E noi, diavolacci, allora vi faremo dire, ma insomma, che palle. Ecco, questo è uno spot a favore della famiglia, immagino. No, la famiglia vera è quella che non obbliga dei riti. Questa è la mia idea, è esattamente questa. Vedrete la sorpresa quando io vi racconterò dei riti che sono riservati ai miei due figliuoli, che rischiano di essere passati loro allo spiedo se non fanno alcune cosette. Sono dei veri demoniaci. Va bene, allora, e a proposito invece di candide presenze di una politica incapace di essere demoniaca, malgrado che quello sia il paese che ci ha regalato il mito di Faust, il contratto con Diavo, insomma, in Germania tutti a dire finita, i liberali, si torna alle elezioni, è finita il 12 anni della Merkel. E invece? Ma tu ci credi a questa roba? Non cioè, lo so. Al fatto che i socialdemocratici si mettono la mano sulla coscienza e dicono ai tedeschi... Ma che sulla coscienza? Non... Si mettono la mano, diciamo, bassa del gluteo. Ah, ecco, per un secondo avevo temuto la parte anteriore. Va bene, allora tu dici, mi pare di capire di sì, però questa domanda, cari ascoltatori, cioè... Si è avuto una elezione in Germania, la SPD, dopo le botte che ha preso per aver governato con la Merkel in questi anni alle elezioni, per responsabilità nazionale si rimette al tavolo, tratta e rifanno un governo con la Merkel? La domanda che noi non possiamo fare altro che girare al nostro fraterno amico, a cui siamo grati per il tempo che ci dedica, troppo spesso gratis, quindi bisogna rimediare, caro editore, Udo Gumpel, che è il corrispondente all'Italia per la rete televisiva tedesca e TV. Grande Udo, come stai? Carissimi, io da almeno 16 anni sono anche corrispondente dell'intero gruppo RTL, che ha comprato tanti anni fa NTV dalla CNN, e perciò all'inizio ero del gruppo CNN, pensate, no? Ed ero compagno e frequentatore della stessa mensa a Berlino della famosa Christiana Nammann, pure che poi purtroppo ha sposato un altro, no? Vedi che sei stato fortunato, posso Com'è, dire cioè. Fortunato. Ma non lo so, vai, si può non vedere così. A me il giudizio, che è comunque una collega stupenda e bravissima e veramente è anche però di questo aspetto non possiamo parlare. Esatto, e anche ti stavo frenando sulle anche. Infatti tu stavi già abbassando l'audio, questo è chiaro. Esatto, no? Ma Udo, io ricordo che tu avevi adesso io questa cosa che i socialdemocratici rifanno il governo non so, i giornali che leggo dicono sono tutti più ottimisti, molto più ottimisti. Ma io di devo dire che io lo chiamerei effetto Lemming, no? Voi sapete questo piccolo roditore che in certe situazioni di sovrappopolazione sua, e che poi non è il caso dell'SPD, si buttano dalla rupe, però in realtà non è un istinto suicida come ci spiegano i biologi, ma in realtà la ricerca di nuovi spazi, no? E però magari i lemming si buttano dalle rupi in migliaia e milioni che sperano di raggiungere l'America oltre l'oceano e non capiscono che non sanno nuotare. E mi sembra che molto appropriato adesso il paragone con l'SPD, perché l'SPD ha preso una batosta terrificante. Il bravo Martin Schulz, che è uno che la mattina si sveglia, c'è l'ordine del giorno, no? È proprio perentorio, lui dice fuori dal governo, lasciate la Merkel, io con la Merkel mai più. Questo è successo circa 3-4 ore fa e adesso lui ha già voltato la pirouette ultima e adesso chiede agli iscritti. Naturalmente sarà la rovina dell'SPD, perché la Merkel è talmente brava, lei è un pudding, e ci ha capito? E si diceva una volta è più facile inchiodare un pudding alla parete che fermare la Merkel con una precisa ma perché lo fanno? Politica. Ma allora, se le cose la vediamo allo stesso modo, perché lo fanno allora? Allora, uno è il presidente della Repubblica, il Franz Walter Steinmeier, è un vecchio socialdemocratico, uno di quelli che godono di grande stima, ma nessuno l'avrebbe mai votato, perché è proprio un pezzo di legno, in altre parole, no? Però è una che ha detto onesta. Di un tedesco, come dire, è già una qualificazione però in sé, caro. Tedesco, va bene. Steinmeier non vuole votare, però questo non basta allora, per un partito. Lui, Steinmeier, naturalmente, è questa la sua figura, un po' come Napoletano, no? È un po' lui che costringe i partiti a fare controvoglia un'unione, no? Innaturale. Il Papa non si è ancora espresso, però di sicuro qualche cardinale antipapista già si mette di a dire unione innaturale, eccetera, eccetera, perché chi se la prende la terga è sempre l'SPD. Però anche la Merkel non sta tanto bene in questo. Esatto. Pensate che dal 42% è scesa al 31-32, che significa che ha perso un quarto del suo elettorato. Ma non rischia di essere. Ma non rischia, scusa, di essere. Non fa bene a nulla. Appunto, rischia di essere l'unione di un partito indebolito e di una leadership finita. Allora, ragazzi, in futuro, anzi già da oggi, vi chiedo di non chiamarlo grosse coalizione, perché certo. Significa grande, ma questa è una coalizione nicchia, una kleine coalizione, una mini coalizione, ma questa è l'unione dei perdenti che aggrappano al paracadute dei posti dei prossimi 4 anni, eccola la mano sul gluteo, perché naturalmente quelli che sono stati eletti adesso vogliono mantenersi il posto per quattro anni. Diciamolo, finalmente gli italiani e i tedeschi trovano una convergenza di comuni interessi. L'etale considerazione. Ma no, purtroppo non c'è nessuna. Allora, se io fossi adesso, io o noi fossimo capi dell'SPD, potremmo anche ventagliare nei confronti, cioè davanti alla Merkel, guarda, eventualmente ti potremmo anche sostenere con un partito, cioè come dall'opposizione tu fai la maggioranza, tu fai un governo di minoranza e noi sul 95% dei provvedimenti ci potremmo anche mettere d'accordo. Sì, però ma no, ma non un'intesa di governo. No, tu potresti cioè, dire. Quello è diverso, quello che stai dicendo tu è ti faccio ballare come un orso al circo. Esatto, tu dovresti stare all'opposizione e non entrare nel governo, appunto, perché dovresti dare un segno di discontinuità e potresti dire anche al Steinmeier, guarda, noi restiamo fuori dal governo, però siamo disposti a a votarli per responsabilità, naturalmente, quali ci mettiamo d'accordo. E a quel punto dillo alla Merkel, perché dipende da quello che fa la Merkel, perché esatto, poi mica possiamo votare. È così. Tu devi passare il cerino nelle mani della insomma, Merkel. Insomma, ragazzi, abbiamo capito una cosa: il comitato centrale dell'SPD deve dare una consulenza a Udo, perché mi sembra che abbia le idee più chiare quanto non sembra che ce l'abbiano loro. Grazie, Udo Gumpel. Torniamo tra un minuto. L'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Ed eccoci tornati con il compare dei conti della belva, che adesso diventa un'informazione completa, perché ci ha raggiunto Renato Cifarelli. Renato, come stai? Plonto, molto bene. Bentornato Renato. Ha fatto un giro in Asia, per lungo e largo, Singapore, Cina, eccetera, eccetera. Devi sapere che il noto agente del governo comunista cinese, che era Alberto Cannavale Maffè, ha esordito in trasmissione con un grande elogio verso il liberismo, certo, di mercato di un paese che abbatte i dazi sulle importazioni e quindi dà anche una bella riparazione bocca a bocca. Ma sono andato io che ho fatto abbattere i dazi. Bravo, vedi. Basta i dazi. Berlusconi così avrebbe fatto, quindi. Però detto tutto questo, che Cina hai visto? Sei tornato entusiasta? Io sono tornato, io ho visto, sono stato in 4-5 posti a fare delle visite a potenziali clienti, è un stabilimento produttivo che è il gruppo nostro là, e ho visto una Cina che è diversa dalla Cina che avevo visto quando ero andato un po' di anni fa, perché ogni volta che vai, secondo me, la Cina è diversa, e una Cina che è ancora comunque un paese di grandissime contraddizioni, perché vedi cose modernissime, cose grandissime, e di fianco ancora quella che è la Cina molto vecchia, e quindi vedi la contraddizione di un paese che sta sì crescendo, però in un modo un po' disordinato, insomma. Ma di libertà, di libertà, questa roba che sembra proprio interessare ormai sempre meno, tranne i poveri scemi come me, di libertà, tu girando, che passi avanti hai visto? Ma sai, io poi ho girato poco, nel senso che... è chiaro, uno fa gli incontri poi... di lavoro, sta chiuso, è ovvio. Sì, cioè, sai che quando poi vi giri per lavoro vedi dei grandi aeroporti, quelli ne ho visti tanti, dei grandi alberghi e poi gli uffici dei clienti. Devo dire che l'impressione di usare internet in Cina fa paura. Ecco, parlaci di quello, parlaci della perché? Vita quotidiana dell'utilizzatore di internet. La vita social. Allora, perché loro sono attaccati allo smartphone, anche i ragazzi, esattamente come noi. Quindi non vedi queste grosse differenze. Poi ti metti davanti a un computer e cerchi di aprire il tuo sito, cioè quindi il sito della mia azienda, quindi... qualcosa che sono abituato a frequentare, che vedo come possiamo usare qua, e improvvisamente ti trovi, a me sembrava, io sono un po' vecchio forse, ma mi sembrava di essere tornato alle BBS con i modem a 2004, insomma, cioè una cosa vergognosa a livello di velocità. Io scherzando poi con qualche amico ho detto probabilmente c'è un cinesino che mano a mano che arrivano dentro i dati autorizza se li puoi vedere o no. Perché quindi una lentezza di collegamento marchiano. Una lentezza di collegamento che, cioè, non ci puoi credere, non solo, poi loro hanno un loro browser che credo che sia una derivazione di Internet Explorer, però c'è l'icona verde che ogni 3x2 ti fa uscire un pop-up di pubblicità, ma anche di malware. Cioè, sì, no, non ti so dire se era malware o che cosa, però so che c'è. Cioè, nel nostro sito, io so che noi non abbiamo i pop-up di pubblicità nel nostro sito, quindi è qualcosa che viene dalla rete là. Naturalmente non vanno WhatsApp, non va Facebook, non va Twitter, non vanno tutte queste cose qua, e lì c'è un mix di togliere la parte, diciamo, di informazione libera dalla parte per quanto riguarda la popolazione cinese, e in parte secondo me c'è un po' di protezionismo, perché questo ha portato ad aumentare molto l'utilizzo dei loro social network. Esatto, però poi sono però almeno è protezionismo intelligente, capisci? Cioè, sì, almeno hanno favorito la nascita dei campioni nazionali. Bisogna vedere quanto sono poi controllati dal governo, questa è una mia cattiveria. Mentre invece, per esempio, a Singapore il tassista si è scagliato contro Uber. In Cina abbiamo usato praticamente, io ero accompagnato perché non parlando cinese lì non ti muovi di 2 metri perché molta poca popolazione parla inglese, e, mentre invece in Cina abbiamo sempre usato il corrispettivo cinese di Uber, per esempio, cioè non abbiamo mai preso un taxi, abbiamo sempre usato un servizio corrispettivo di che Uber, è un concorrente. Quindi, però non è Uber. No, è un corrispettivo cinese che penso che sia poi lo stesso gruppo di WeChat, esatto, che è concorrente, sì, esatto. Che è concorrente di WhatsApp, tanto per intendere. Quindi a Singapore il tassista era incazzato per la concorrenza, mentre in Cina la concorrenza vince. Ti ripeto l'ultima volta. In Cina non ho usato i taxi, quindi non so dire. Poi se l'avessero fatto mentre quello di Singapore parlava inglese, parlava cinese, non l'avrei saputo. Ti faccio la battuta che mi ha fatto a Bruxelles qualche giorno fa. Quando nasce una nuova tecnologia in America ci fanno un business, in Cina la copiano e qui a Bruxelles la proibiamo. Questo è più o meno quello che succede. Ma diciamo cosa fanno a Roma. Questo mi sembra molto adatto. Dopodiché ho visto costruire una montagna di case, ma una cosa, cioè ogni città è in espansione pazzesca, però fanno queste cose a mio personalissimo gusto, veramente orribile, i gruppi di grattacieli. C'hanno ancora 32, i cluster di edificatori. 32 piani, eccetera, eccetera. Poi ho un po' di cose, ma vorrei il business, ma vorrei evitare, tanto per non farmi denunciare Esatto. No, a me ne avevamo un'impressione così, soft. Però la libertà, ragazzi, mi pare fondamentale. La libertà lì non c'è, dai, su, non c'è. Non è una cosa che respiri nell'aria. Esatto, una libertà ecco. Di consumo, ma a patto di avere le idee chiare, solo quelle del partito, punto. Il resto non le trovi, quelle dei social, che non è poco. Allora, grazie anche a Renato, grazie a Mario Simiero, grazie a Carlo Alberto. Grazie a voi. Grazie a voi tutti, continuate su Radio 24 tutto il fine settimana e poi lunedì alle 8:15, 24 mattino, io e Luca Telese il pomeriggio, la versione di Oscar!